perfetto giorno di Alessio Maurizi. Sale l'allarme in Cina per il coronavirus. Le autorità bloccano i mezzi pubblici per 41 milioni di persone per evitare il contagio. Sì del Consiglio dei Ministri al taglio del cuneo fiscale, busta paga più pesante per 16 milioni di lavoratori. Oggi ultimo giorno di campagna elettorale per le regionali. Roma, maltrattamenti ai bimbi dell'asilo, arrestate due maestre. Sport, tennis, Fognini passa agli ottavi degli Australian Open, sci ancora un podio per Federica Brignone in Coppa del Mondo e stasera torna la Serie A con Milan-Brescia. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Nei prossimi 15 minuti la sintesi della giornata di oggi, poi dalle 13:15 i nostri approfondimenti. Cominciamo a parlare del virus cinese, perché sale ancora il numero delle vittime. Intanto le autorità cinesi, per evitare il contagio, hanno esteso il blocco ai trasporti pubblici in 13 città, bloccando di fatto gli spostamenti di quasi 40 milioni di cittadini cinesi. Ancora pochi casi all'estero, ma facciamo il punto con Rosanna Magnano. Buongiorno. La Cina serra i ranghi contro l'epidemia. Sarà pronto in soli 10 giorni il nuovo ospedale che le autorità cinesi stanno costruendo a Wuhan, città epicentro del coronavirus, per i pazienti colpiti dal contagio. E per contenere l'epidemia, la città proibita di Pechino ha deciso di non accogliere più visitatori a partire da domani, e misure simili sono state prese anche nei più importanti musei e siti culturali. Al momento il bilancio dei morti è di 25, mentre 830 sono i casi di polmonite confermati in 29 regioni della Cina. Limitata al momento, come dicevi, la diffusione oltre confine, e per questo motivo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale. La task force italiana del Ministero della Salute ha verificato che le misure adottate sono in linea con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Cina comunque continua a estendere i blocchi ai trasporti nelle città della provincia di Hubei, portando così a oltre 41 milioni il numero dei cittadini coinvolti. Tornando in Italia, si tira un respiro di sollievo sul caso sospetto della cantante ricoverata al Policlinico di Bari. I primi esami, già nella serata di ieri, hanno individuato una positività non al coronavirus, ma a un batterio che causa polmonite. Per ora è tutto. Grazie Rosanna Magnano per tutti questi aggiornamenti. E se ce ne saranno ancora, naturalmente vedremo nel corso di effetto giorno. Adesso, prima di venire in Italia, ho un'ultima ora che riguarda una forte esplosione che è stata sentita negli Stati Uniti a Houston, in Texas. Lo riporta il profilo Twitter della polizia locale, riferendosi alla esplosione avvenuta all'interno di un edificio. Anche numerosi utenti dei social network riferiscono, postando anche dei video, di aver sentito e visto una esplosione all'interno di un edificio a Houston. Naturalmente cercheremo di aggiornarvi nel corso di effetto giorno sulle cause e le conseguenze di questa esplosione. Adesso, come detto, veniamo in Italia. Ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni regionali, un test naturalmente molto significativo anche per le forze politiche nazionali e per la tenuta del governo stesso. Una maggioranza che cerca di mostrarsi compatta grazie anche al taglio del cuneo fiscale, ma dove i distinguo continuano ad essere evidenti. Preoccupano le divisioni nel Movimento 5 Stelle. Questa mattina interviene Beppe Grillo, che ringrazia Luigi Di Maio per aver gestito la situazione, mentre il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli nega di voler fare il capo dei 5 Stelle. Non ho nessuna ambizione in tal senso, spiega. Nicola Zingaretti preferisce pensare invece al taglio del cuneo, con gli stipendi di 16 milioni di italiani in crescita. Intanto in Emilia-Romagna scoppia la polemica sul caso di Yolanda di Savoia, comune del Ferrarese, il cui sindaco ha fatto un esposto denunciando che dopo la decisione della vice sindaca di appoggiare la leghista Lucia Borgonzoni, il candidato di centrosinistra e governatore uscente Stefano Bonaccini avrebbe fatto pressione perché 3 comuni limitrofi rifiutassero di condividere alcuni dipendenti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il centrodestra chiude con una manifestazione congiunta la campagna elettorale in Emilia-Romagna. Alle 18:30 Salvini, Berlusconi e Meloni saranno in piazza a Ravenna per gli ultimi appelli a sostegno della candidata Lucia Borgonzoni. Questa mattina il leader della Lega è tornato sulle polemiche seguite alla sua trovata elettorale che lo ha visto citofonare a casa di un presunto spacciatore tunisino nel quartiere bolognese del Pilastro. Contro la droga non sono garantista, se quel ragazzo non sarà ritenuto uno spacciatore avrà le mie scuse, ma in quel palazzo si spaccia, ha detto il segretario leghista, secondo il quale il voto di domenica sarà anche un referendum sui suoi decreti sicurezza. Salvini ha anche affermato che quella di ieri a Bibbiano è stata una manifestazione a difesa dei bambini. Il leader leghista ha poi attaccato il governo per i 28 milioni di euro stanziati ieri sera per il maltempo che a maggio ha colpito l'Emilia-Romagna. Guarda caso se ne sono ricordati a 3 giorni dal voto, ma gli emiliano-romagnoli non sono fessi, ha concluso l'ex ministro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto è arrivato ieri sera il via libera da parte del Consiglio dei Ministri ad una prima annunciata tranche di riforma fiscale. Si tratta del taglio delle tasse sulle buste paga dei lavoratori. Via libera alla riforma del cuneo fiscale, ma solo per 6 mesi in via sperimentale. A partire da luglio più soldi in busta paga per i redditi compresi tra gli 8 e i 40.000 euro annui. Il decreto prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro, 4,3 milioni i nuovi beneficiari che portano la platea complessiva a 16 milioni di lavoratori. Fino a 26.600 euro il bonus già esistente passerà da 80 a 100 euro al mese. Tra i 26.600 e i 28.000 verrà introdotto per la prima volta l'incremento di 100 euro. Tra i 28.000 e i 35.000 invece scatterà una detrazione fiscale dai 100 agli 80 euro. Oltre i 35.000 l'importo del beneficio continuerà a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000. Tra le altre misure, uno stanziamento da 345 milioni per i terremotati del centro Italia e da 28,4 milioni per i danni del maltempo in Emilia-Romagna. Il Consiglio dei Ministri ha deciso anche di varare una stretta sulle frodi finanziarie nell'Unione Europea e impugnare la legge della Regione Sicilia sui vitalizi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora un passo, siamo all'estero adesso nella direzione della Brexit, perché oggi la numero uno della Commissione Ursula von der Leyen, la Commissione europea, e il Presidente del Consiglio europeo Michel hanno sottoscritto l'intesa sul divorzio tra l'Europa e la Gran Bretagna. Sentiamo. La Brexit è cosa fatta, almeno sulla carta. Da Bruxelles è arrivato oggi il sigillo ufficiale al tormentato accordo di divorzio tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, che per 3 anni e mezzo ha tenuto impegnati leader europei e parlamentari britannici in agguerriti faccia a faccia. I presidenti della Commissione e del Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, hanno formalmente siglato l'accordo di recesso dopo che ieri la regina Elisabetta ha dato l'assenso ufficiale alla legge attuativa della Brexit, votata definitivamente a Westminster. Ora, la strada è aperta per la ratifica ufficiale del Parlamento europeo il 29 gennaio e per l'uscita ordinata della Gran Bretagna dalla UE dopo 45 anni, prevista per il prossimo 31 gennaio a rintocco della mezzanotte italiana, le 23 britanniche. Inevitabilmente le cose cambieranno, ma la nostra amicizia resterà e ora comincia un nuovo capitolo come partner e alleati, ha commentato Michel. Se tanto mi dà tanto, però, la partita resta tesa. Dal 1 febbraio si aprirà un periodo di transizione di 11 mesi, durante i quali il primo ministro britannico Boris Johnson conta di negoziare il futuro delle relazioni con Bruxelles e gli accordi commerciali con i 27 paesi, senza far valere l'opzione di richiedere un'ulteriore estensione oltre la fine del 2020. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Un piano di pace per il Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ci starebbe lavorando e sarebbe intenzionato a presentarlo entro il 2 marzo, prima delle elezioni in Israele. Ma la dirigenza palestinese, a quanto si apprende, lo avrebbe già bocciato per le troppe concessioni fatte proprio a Israele. E ora con la cronaca veniamo in Italia. Episodio di antisemitismo a Mondovì, in Piemonte. Una scritta antisemita è comparsa sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana deportata a Ravensbrück nel campo di concentramento nel 1944. La scritta Juden hier, qui ci sono ebrei, come nelle città tedesche durante il nazismo. È comparsa durante la notte a Mondovì, in provincia di Cuneo, sulla porta della casa dove la donna ha vissuto sino alla morte nel 1996. Due maestre della scuola dell'infanzia di Roma sono state arrestate per maltrattamenti. gravemente indiziate di violenze fisiche e psicologiche, schiaffi, urla e offese verbali all'interno delle aule scolastiche che hanno condizionato la vita dei bambini loro affidati. Si tratta di due maestre di una scuola dell'infanzia alle porte di Roma, arrestate per maltrattamenti. Le intercettazioni audio-video autorizzate dal GIP hanno documentato in pochi giorni metodi violenti e punizioni esemplari verso i piccoli. Le indagini sono state avviate dai carabinieri in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori. I bambini avevano paura di andare a scuola e qualcuno avrebbe replicato a casa insulti e atteggiamenti visti in classe. La polizia ha deciso di non diffondere le immagini delle violenze, pur oscurando i volti, per rispettare la dignità delle giovani vittime. Altro episodio questa volta ad Alessandria. La procura ha chiuso le indagini nei confronti di una educatrice e di una insegnante di sostegno di una scuola elementare della città. Maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione, i reati ipotizzati. Vittima delle umiliazioni, un bambino autistico di 8 anni. A far scattare l'indagine, anche in questo caso, la denuncia della madre. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È una tendenza che sta rendendo più gentili le strade delle nostre città, una tendenza che arriva dall'Iran. Parliamo del muro della gentilezza che appare in sempre più città italiane. Il primo muro della gentilezza è nato in Iran nel 2015, a Mashhad. Qualcuno ha appeso abiti, scarpe lungo una via con cartelli con la scritta «Se ne hai bisogno, prendilo». In molti altri hanno sostenuto nell'anonimato il gesto e il muro è diventato un luogo in cui chi aveva bisogno trovava il conforto di un vestito pulito, calze asciutte. L'idea è finita sui social e nel giro di poco tempo di muri della gentilezza si è riempito il mondo. Cina, Indonesia, Svezia, Stati Uniti, India, tanti muri anche in Europa. In Italia sono molte le strade di diverse città a dare forma a questo gesto. Ci sono muri a Bari, a Monza, a Milano alle spalle del cimitero monumentale e a Torino, dove a far nascere il progetto è stata Zina Dobre, una parrucchiera. Carico questo muretto anche 2-3 volte al giorno. Vestiti invernali, giacconi, maglioni. Lei da sola riesce a portare tutta questa roba grazie anche all'aiuto di amici? Sì, ma alcune persone vengono e la attaccano direttamente lì fuori. Ci sono dei bigliettini dove c'è scritto «Se hai bisogno, prendilo, te lo regala una persona gentile». Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Fabio Fognini passa agli ottavi degli Australian Open di tennis. Il tennista ligure ci arriva dopo aver battuto al terzo turno l'argentino Pella, numero 25 in classifica, in 3 set. Al prossimo turno affronterà l'americano Sandgren, numero 100 della classifica. Per lo sci ancora un podio, il 6° stagionale per l'azzurra Federica Brignone, seconda nella discesa di Coppa del Mondo di Bansko in Ungheria, dietro la campionessa americana Michaela Schifrin. La Brignone è seconda anche in classifica generale. Per il calcio stasera torna la Serie A, sentiamo. Donald Trump è pronto a presentare. Incredibile ma vero, dopo il lungo buio il Milan di Pioli cerca la terza vittoria consecutiva stasera contro il Brescia di Eugenio Corini. Per la squadra rossonera, e anche questo è significativo, sarebbe la prima volta in stagione che fa un tris vincente. Un tris che potrebbe aiutarla a rimettersi in pista per un piazzamento europeo. Già parlare di Europa, dal senso di quanto l'arrivo di Ibrahimovic abbia modificato le prospettive di Pioli, prima più preoccupato di non sprofondare in zona retrocessione che puntare alle zone alte. Il Brescia, che ha la necessità opposta, cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote, ma non sarà facile, perché al Milan l'aria è cambiata e la voglia di svoltare fa volare perfino giocatori come Rebic, che prima del match con l'Udinese erano dimenticati nello spogliatoio. Forse l'effetto Ibra è anche questo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:14 minuti, effetto giorno fa una pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Parleremo ancora del virus cinese, lo faremo raccontare da un esponente della comunità cinese in Italia. Poi la notizia del taglio dei vitalizi della regione Sicilia, taglio che è stato bocciato ieri dal Consiglio dei Ministri perché è un taglio troppo soft. Cercheremo di capire come e perché. Tra poco 349-238-6666 per i vostri messaggi, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Maestro SD-One, aiutami! Le reti della mia azienda stanno passando al lato oscuro! Non temere, ecco la tua arma. La fibra intelligente di Iridios. È intelligente perché ha sempre tutto sotto controllo. Accessi, cloud, applicazioni. Si integra con tutte le tecnologie. ADSL, fibra, wireless di qualunque operatore. E poi si attiva in un laser. Volevo dire in un lampo. Vai su fiberintelligente.it. Fibra intelligente. La soluzione SD-One di Iridios. Il nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende. Effetto giorno. Sale l'allarme in Cina per il coronavirus, le autorità bloccano i mezzi pubblici per 40 milioni di persone per evitare il contagio. Sì del Consiglio dei Ministri al taglio del cuneo fiscale, oggi ultimo giorno di campagna elettorale per le regionali. A Houston negli Stati Uniti forte esplosione in un edificio, lo riferisce la polizia locale. Vitalizi, il taglio della Sicilia è troppo soft, il Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale siciliana, effetto giorno il consigliere regionale Cracolici. Sport tennis, Fognini passa agli ottavi degli Australian Open, sci secondo posto per la Brignone in Coppa del Mondo. Tredici e 17 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, quelli che avete sentito erano i titoli, sono i titoli della giornata di oggi, e tra questi naturalmente c'è la preoccupazione per il virus cinese. Facciamo allora il punto sulle notizie che si hanno fino a questo punto. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità non si tratta ancora di un'emergenza internazionale, anche se poco fa, notizia diffusa da Bloomberg, la Cina ha ordinato a tutte le agenzie di viaggio internazionali di interrompere la vendita di tour interni e internazionali per evitare il contagio, contagio che verso l'estero è ancora molto limitato perché ci sono pochissimi casi, fortunatamente. Uno negli Stati Uniti, in Australia, due in Corea del Sud, poi Hong Kong, due casi in Giappone, uno al confine con la Russia. Il tasso di mortalità di questo virus è ancora molto inferiore rispetto ad altre epidemie tipo la SARS, parliamo circa l'1%. E le vittime fino ad ora sono state 26. Vogliamo parlarne però anche dal punto di vista di chi si trova in Italia ma fa parte della comunità cinese in Italia. Parlo di Marco Wong, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Cittadino italiano di origini cinesi, lui nella vita è un ingegnere, ha un'azienda, fa il manager in un'azienda, anche consigliere comunale a Prato. Wong, la sensazione è che la Cina abbia dato l'impressione di darsi molto da fare per arginare il contagio. Allora, le notizie sono tante, è stata isolata subito la città di Wuhan, bloccati i mezzi pubblici, lo dicevamo nei titoli, in 13 città, è tanto, sono 40 milioni di abitanti che non possono spostarsi con i mezzi pubblici, naturalmente sempre per evitare il contagio. L'origine del contagio è stata individuata da ricercatori cinesi, adesso si cerca di bloccare il turismo. Però le chiedo, nella comunità cinese invece in Italia, che tipo di preoccupazione c'è per questo virus? Beh, sicuramente viene seguito con molta attenzione perché soprattutto con i social le notizie girano velocissimamente e poi tra l'altro appunto oggi è il capodanno lunare cinese, quindi è un periodo in cui tradizionalmente si torna nelle famiglie di origine per rinsaldare un po' i legami, quindi insomma ci sono quindi erano previsti spostamenti anche verso la Cina per esempio? Indubbiamente, insomma, è l'occasione appunto in cui si torna in Cina a vedere i parenti lasciati, no? E quindi insomma sui social ci sono appunto le discussioni se tornare in questo momento, posticipare la visita e che cosa fare. Questo qui nonostante appunto che la città, l'area da cui viene la maggior parte dei cinesi in Italia sia piuttosto distante dal focolaio dell'epidemia che è Wuhan. Tra Wuhan e appunto quest'area che fa riferimento alla città di Guangzhou ci sono circa 900 chilometri, quindi non è una delle aree più interessate al rischio. Quindi al momento non le risulta che ci siano cittadini cinesi che hanno disdetto viaggi verso l'Italia, verso la Cina, verso il loro luogo di origine che appunto dista molto, per la media dei cinesi in Italia, da Wuhan, per queste preoccupazioni, cioè in vista anche del Capodanno cinese, dico. Sì, beh, intanto i festeggiamenti ci sono in Cina, però in Italia è un periodo insomma come un altro, per cui insomma andare in Cina significa prendersi un sì, periodo delle ferie, così, quindi ci sono sempre dei pro e contro. Diciamo che nella decisione può anche pesare il fatto della preoccupazione, insomma, di questa preoccupazione, però diciamo sicuramente è molto minore che quella che ci può essere tra i cinesi in Cina. Diciamo che poi ci sono il tema è molto caldo, perché per esempio qui a Prato la comunità cinese sta organizzando delle collette per raccolta di materiale da inviare nelle città bisognose. Per esempio in Cina adesso c'è una scarsità nel reperimento, per esempio, delle mascherine che si usano per proteggersi appunto più banalmente dal raffreddore, e per esempio i prezzi di questi articoli si sono moltiplicati, oppure addirittura sono molto difficili da trovare. Quindi per esempio le comunità cinesi all'estero si stanno anche organizzando per mostrare un po' la propria solidarietà in questo momento di crisi. Sì, perché poi la mascherina è uno degli unici modi, insieme a lavarsi costantemente e per un tempo prolungato, diciamo, le mani, l'unico modo per prevenire il contagio. A proposito del contagio, c'è questa questione, Wong, del serpente, no? Perché diciamolo anche a chi non conosce magari la cultura cinese, il contagio arriva, a quello che hanno detto i ricercatori dell'Università di Pechino, proprio dal serpente, che viene comunemente mangiato, è un cibo commestibile per il cinese medio, il serpente? Sì, adesso insomma ho sentito varie ipotesi, insomma quella del serpente è una di queste, da quello che ho capito non era del tutto sicuro al 100%, comunque sì, il serpente è un qualche cosa che fa parte della cultura gastronomica, per cui per esempio ci sono alcuni piatti con il serpente, oppure viene utilizzato per alcuni trattamenti, insomma, che per esempio in alcuni piatti un po' particolari. Ma anche in Italia, anche nei ristoranti cinesi in Italia si consuma serpente? Ma quello no, perché a parte la difficoltà del reperimento della materia prima, poi perché insomma la maggior parte dei ristoranti cinesi in Italia ha una clientela italiana che probabilmente non apprezzerebbe. Non gradirebbe più di tanto, insomma, quindi ovviamente devono un po' adeguarsi ai gusti, alle abitudini della loro clientela. Grazie Marco Wong per essere stato con noi. Buona giornata, grazie. Ricordiamo solo che quando scoppiò l'epidemia di SARS nel 2002 ci furono anche delle polemiche sulla Cina, ma anche nei confronti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per non aver fatto abbastanza, per avere in certi casi coperto delle situazioni. In quel caso finì in maniera in questa maniera, ve lo ricordo, ci furono più di 8.000 casi, 800 vittime circa, stimate fra il 2002 e il 2003, ci furono 4 casi, nessuno letale, anche in Italia il tasso di mortalità della SARS era molto più elevata di quello che invece non riguardi questo nuovo coronavirus. Adesso invece cambiamo argomento, perché alla vigilia della giornata della memoria vi presentiamo questo reportage che è curato da Radio 24, da Dario Ricci per Radio 24 con la regia di Valeria Bernardi, andrà in onda domenica mattina alle 8:15, un calcio al razzismo, lo anticipiamo con questa intervista al presidente della Federcalcio che ha fatto il punto sulle iniziative che ci sono proprio in questa materia. Al microfono è Dario Ricci. Una prima fase a brevissimo termine, quindi l'adozione di sanzioni particolarmente severe, e come abbiamo sostenuto sono le più severe a livello internazionale. Uno a medio termine, ricorso alla tecnologia che ormai è perfezionato, quindi si tratta solo di avere l'ok e di condividere il percorso con il Ministero degli Interni. Poi c'è quello a lungo termine sul quale stiamo già lavorando e riguarda il processo di educazione e di formazione dei ragazzi e dei giovani all'interno delle scuole. Eccoci qua, 13:26 minuti. Adesso, come anticipato dai titoli, la notizia della bocciatura a parte del Consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge regionale sul taglio dei vitalizi in Sicilia. È con noi il deputato dell'Assemblea regionale siciliana, perché così si chiamano, Antonino Antonello Cracolici, benvenuto. Buongiorno. Allora, ricordo soltanto che brevissimamente la storia, perché dopo l'abolizione dei vitalizi per i consiglieri regionali in carica e per il futuro, la sforbiciata che arrivò tra il 2012 e il 2013, restava sul tappeto la questione degli assegni già emanati, no, da ridimensionare, come previsto da un accordo, se ricordo tutto correttamente, in conferenza Stato-Regioni dell'anno scorso, in base al quale, in assenza di questo taglio, le regioni sarebbero rimaste a secco di una parte almeno dei trasferimenti che da Roma vengono appunto girati proprio alle regioni, trasferimenti economici. La Sicilia ha ottemperato, quando era, Cracolici? Settembre, ottobre, fine del 2019, giusto? Novembre. Dal primo dicembre 2019, ecco, ottemperanza a quanto previsto dall'accordo Stato-Regione. Esatto, però ieri è arrivata questa decisione del Consiglio dei Ministri. Perché questa bocciatura? Qual è il merito della bocciatura? Devo dire che al momento non sono in grado di dirlo per la semplice ragione che non c'è ancora pervenuta la disposizione, ecco, di... Lo dico brevemente io, Cracolici, perché le critiche che c'erano prima, ci eravamo già sentiti, e quello che ha riferito poi Boccia è che questo è un taglio, un finto taglio, un taglio troppo soft, un taglio temporaneo, eccetera. Le risulta questo, e può essere questo un motivo della bocciatura? Allora, da quel che mi risulta è che l'impugnativa riguarda il taglio temporaneo, ovvero la decisione che l'Assemblea regionale ha assunto di effettuare i tagli per 5 anni sulle pensioni che in atto eroga. Quindi un taglio più soft rispetto alle altre regioni che invece non hanno posto limiti di tempo rispetto a questo taglio. Diciamo che c'è una disposizione che, devo dire, in ottemperanza oltretutto, ma questo io avevo auspicato che il Consiglio dei Ministri impugnasse la norma. A lei aveva auspicato l'impugnatura della norma, e per quale motivo l'avete fatta allora, se poi voleva che la impugnassero? Perché c'è un contenzioso giuridico tra noi e lo Stato, cioè l'idea stessa che si possano retroattivamente modificare diritti soggettivi è un punto, diciamo, che non è che lo dico io, lo dice il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Mirabelli, ma lo dice la stessa sentenza della Corte Costituzionale relativamente alla Regione Trentino nel maggio del 2019, che ribadisce che gli effetti retroattivi di diritti soggettivi devono contenere 2 principi sui quali non si può derogare: la ragionevolezza del taglio e soprattutto la temporaneità. Ecco perché avevo auspicato che questa legge avesse anche, come dire, la possibilità di essere giudicata dalla Corte Costituzionale, perché una volta che la Corte si pronuncerà, questo varrà per tutte le regioni, ma anche per lo Stato. Cioè, è evidente che qui non si può continuare in una discussione infinita dove ci sono questioni di rilievo costituzionale che ad oggi la Corte non è stata messa nelle condizioni di poter esprimere. Dico soltanto, faccio un esempio. Però, Cracolici, scusi, mi faccia fare una domanda, perché si andrebbe per le lunghe, naturalmente, di sentenza in sentenza della Corte Costituzionale. Io le chiedo, al netto di queste valutazioni che lei ha appena espresso, ma glielo chiedo molto tranquillamente, come rappresentante dell'Assemblea regionale siciliana, voi non, uso questa espressione, ma volutamente, non vi vergognate di avere fatto un taglio dei vitalizi che sembra un finto taglio di fronte allo Stato in cui versano tanti servizi in Sicilia? Penso agli ospedali, penso alla raccolta dei rifiuti, a tante altre cose. Si poteva risparmiare qualche cosa di più e investirlo meglio, no? Ma scusi, il di più e il di meno è un giudizio, come dire, relativo, perché io le posso dire che con questa legge risparmiamo oltre 2 milioni di euro su un sistema, diciamo, di pensioni che riguarda circa 18 milioni erogate. Quindi la risposta è no, non vi vergognate. Vabbè. No, mi scusi, qui la vergogna è un parametro che riguarda tutte le categorie, compreso quella a cui lei appartiene. No, certo, stante il fatto però, Cracolici, mi scusi, che i vitalizi sono stati aboliti perché sono una ingiustizia, no? Questo è tra i più alti effettuati tra le regioni italiane. Quindi quando parliamo di cose, per favore, non guardi, no, ma salutiamoci con cortesia, naturalmente, come è dovuto. Io sono... ho la mia opinione, lei ha la sua, naturalmente. Quindi non è che qua io cercavo di convincerla, le ho fatto una domanda. Lei... mi devo vergognare, io faccio il legislatore fa le leggi, dopodiché c'è il giudice delle leggi, che è la Corte Costituzionale, staremo a vedere, che dirà perfetto. Se sbaglio io o sbaglia lo Stato. Va bene, grazie, buona giornata, buona giornata. 13 e 31 minuti, facciamo una pausa, torniamo tra poco anche con i vostri commenti al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, a tra poco. Effetto Giorno. Sale l'allarme in Cina per il coronavirus, le autorità bloccano i mezzi pubblici per 40 milioni di persone per evitare il contagio. Sì del Consiglio dei Ministri al taglio del cuneo fiscale, oggi ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni regionali. Maltrattamenti ai bimbi dell'asilo, arrestate due maestre romane. Pisa, la segretaria precaria di una piccola azienda resta incinta, l'imprenditore decide di assumerla, è brava, non potevo lasciarla scappare, dice a Effetto Giorno, storia a lieto fine di un'impresa di riscaldamenti. Sport, tennis, Fognini passa agli ottavi degli Australian Open, sci secondo posto per la Brignone in Coppa del Mondo e stasera torna la Serie A del calcio con Milan-Brescia. di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Questi erano i titoli delle notizie di oggi. Aggiungiamoci anche una esplosione avvenuta all'interno di un edificio a Houston, segnalata dalla polizia locale. Al momento non si hanno notizie sulle conseguenze di questa esplosione di cui vi abbiamo parlato all'inizio di Effetto Giorno. 349-238-6666 per i vostri messaggi sulle notizie di oggi, c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno. Allora, ci sono diverse reazioni all'intervista a Cracolisci sul taglio dei vitalizi della Regione Sicilia, bocciati ieri dal Consiglio dei Ministri. Che dire, non so neanche se leggerli perché un po' ve li immaginate, però qualcosa leggo, non è che voglio dare fiato agli istinti bassi di fronte a queste bassezze della politica italiana, quelle proprio basse, come questa difesa del vitalizio, però insomma, li leggo. Parassiti, dice un ascoltatore, mi vergogno da siciliano, dice un altro. Vergogna è un concetto relativo perché l'importante per loro è non ridursi il vitalizio, oppure... Buongiorno, è vergognoso, nonché assai irritante, ascoltare le non ragioni dei burocrati della Regione Sicilia arroccati su inaccettabili difese di privilegi, specialmente in una regione con servizi spesso da terzo mondo. E abbiamo detto tutto, vabbè. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Lo sappiamo tutti, le tasse sono una priorità della politica da sempre e il taglio al cuneo fiscale, che darà ossigeno alle buste paga di 16 milioni di italiani, è buona cosa e forse anche un buon inizio. Ma è anche l'occasione per dare un'occhiata al fisco reale, così come si è configurato dopo anni e anni di sedimentazione di bonus, eccezioni, aggravi e via complicando. E ormai le cosiddette tax expenditure, gli sconti, sono fatte da quasi 500 voci e valgono almeno 60 miliardi. L'equità fiscale è il giusto mantra della democrazia, ma basta un caso per capire quanto siamo ancora lontani se ad esempio guardiamo oggi le aliquote reali. Con 20.000 euro di reddito annuo e due figli a carico, un lavoratore dipendente paga un'aliquota reale IRPEF dello 0,1%, pari a 16,8 euro, mentre un autonomo con lo stesso reddito versa 1.786 euro e un pensionato 1.421. In altri casi gli squilibri si invertono, insomma l'Italia è ormai una giungla fiscale intricata e contraddittoria. E forse vale la pena di non dimenticare che l'evasione è stimata in quasi 109 miliardi. È tempo di disboscare seriamente questa giungla. Certo servirà il macete e molto coraggio politico. È venerdì e come di consueto ci lasciamo con una bella storia, con una piccola storia. Siamo in Toscana, in provincia di Pisa, una piccola azienda che si occupa di impianti di riscaldamento e di energie rinnovabili. C'è una dipendente a tempo determinato, resta incinta. Le salgono naturalmente le solite ansie, oddio come andrà a finire, mi licenzieranno. Invece arriva la sorpresa, l'imprenditore l'assume. È una piccola storia, forse non straordinaria, perché di imprenditori bravi da questo punto di vista ce ne sono in Italia moltissimi, però storie che spesso non si raccontano, invece è giusto raccontarle. È con noi il protagonista, uno dei due protagonisti, Davide Zaccaria, amministratore della Cridav. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, di che cosa vi occupate intanto? Sì, la mia azienda si occupa di commercializzazione, installazione, progettazione di energie rinnovabili a 360 gradi, quindi tutto quello che riguarda il risparmio energetico. Le ho fatto questa domanda perché, insomma, bisogna anche poterselo permettere di avere un'azienda che va bene in questo periodo e poi, diciamo, poi essere anche corretti nei confronti dei dipendenti, come nel suo caso. Insomma, ci racconti quando è successo che la ragazza le ha comunicato di essere incinta, se lei ha pensato... ha avuto un riflesso subito, magari negativo, oppure si è da subito pensato no, la voglio assumere? Bene, sì, per quanto riguarda appunto Selene, nel momento in cui me lo ha comunicato, che insomma è stato anche, diciamo me l'ha comunicato con lo sguardo, perché quando ci siamo messi a sedere in, uno di fronte all'altro nella scrivania e mi ha guardato... mi ha detto più con il silenzio, mi è arrivato un messaggio che era incinta, insomma, come quasi mi è arrivata questo messaggio. Cioè non osava dirlo? No, non osava dirlo. Poi, quasi che sta diventando veramente una cosa di cui aver paura, di cui vergognarsi, anche se da quel che ho capito nella vostra azienda c'è un clima tale per cui non era questo il caso. Però poi lei ha scoperto, la ragazza, dico Selene, che lei aveva intenzione di assumerla. Quando gliel'ha detto? Sì, praticamente insomma del rinnovo del contratto gliel'ho detto due giorni dopo che mi ha comunicato questa notizia, gli ho detto di godersi sicuramente il momento e gli avrei fatto sapere entro un paio di giorni, insomma comunque di stare tranquilla che avrei trovato una soluzione. Perché poi assumerla cosa vuol dire? Vuol dire che intanto contrattualizzarla, probabilmente anche pagare dei contributi, anche se poi quelli della maternità sono pagati dall'INPS, però insomma lei si è fatto carico di qualche spesa che forse poteva anche aspettare e rimandare, però l'ha fatto perché? Per dare serenità a questa persona, perché è brava, sì, ha detto anche allora, in un'altra intervista. Sì, infatti, cioè, allora Serene è una ragazza in gamba, capace e porta egregiamente avanti la propria mansione, il proprio lavoro. Questo è il primo buon motivo. Insieme a quello, io sono papà da 7 anni, insomma sono diventato padre, quindi so perfettamente cosa si prova e che emozioni si prova in entrambi i casi, sia l'uomo che la donna. Selene, io ho apprezzato tantissimo, e qui subentra il buon rapporto fra titolare e dipendente, secondo il mio punto di vista, poteva anche non dirmelo che era incinta, me l'avrebbe potuto dire dopo il rinnovo del contratto, invece me l'ha detto prima e io questo l'ho apprezzato tantissimo. Zaccaria, prima di salutarci le voglio chiedere, lei si sente una mosca bianca, cioè un imprenditore particolare per aver fatto questa scelta, o pensa di essere circondato da altri che in realtà sono commossi dalle sue stesse intenzioni, anche se magari non sempre riescono a essere così bravi come lei? No, io penso che ci siano tantissimi bravi imprenditori, purtroppo quando si ha un'azienda l'unica certezza che abbiamo sono i costi fissi, tutto il resto è variabile. Grazie Zaccaria per essere stato con noi, il titolare della Cridav e il protagonista insieme a Selene di questa piccola bella storia dalla Toscana. E adesso le storie dello sport. Vabbè, intanto Carlo, piccola bella storia dall'Australia, la vuoi? Dall'Australia, bravo, hai già capito. Beh, piccola neanche tanto, perché Fognini ha vinto anche questa mattina, stavolta senza soffrire più di tanto, senza metterci tanto tempo, in 3 set contro l'argentino Peja numero 25. Non era un niente facile questo qua. No, però Fognini ha giocato veramente bene, 7-6, 6-2, 6-3, e quindi si passa oltre, si va agli ottavi. Fognini per la terza volta consecutiva agli ottavi in Australia, proverà a vendicare sportivamente Berrettini. Sì, perché è stato battuto proprio dall'americano. L'americano Sandgren che incrocerà Fognini nel prossimo turno. Da lì partiremo con tutti i convocati, poi ci sono altre suggestioni come il ritorno di Sarri a Napoli domenica sera, molto atteso, tanto che a San Paolo ha venduto più biglietti per questa partita che non per quella in Champions con Liverpool. Penso un po' tu. Poi ieri è stato presentato uno dei grandi sogni rossi degli italiani, non la Ferrari ma la Ducati. Faremo due chiacchiere con Paolo Ciabatti, numero uno del muretto Ducati, grandi aspettative, e poi sarà nostro ospite Stefano Sorrentino, portiere, ex portiere, ex da pochissimi giorni, il 21 ha annunciato il suo ritiro a 40 anni, Chievo, Palermo, giovanili, inizio carriera tra Juventus e Torino, insomma un bel personaggio che ci verrà a trovare. Grazie Carlo, appuntamento con a tutti i convocati dopo il GR delle 14 naturalmente. Noi alle 13:46 minuti facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco insieme a Giulia Crivelli e ai giornali internazionali.